Non arrossire quando ti guardo, ma ferma il tuo cuore che trema per me. Non aver paura di darmi un bacio, ma stammi vicino e scaccia il timore. Il nostro amor non potrà mai finire. Stringiti a me e poi lasciati andare. No, non temere, non indugiare, non si fa del male se puro è l'amore. Non arrossire quando ti guardo, ma ferma il tuo cuore che trema d'amore.